Dal 2021 è nato questo movimento auto-organizzato di migranti rifugiati in Libia che per oltre 100 giorni hanno protestato di fronte alla sede dell'UNHCR a Tripoli, essendo anche stati smantellati più volte dalle milizie libiche. Ed è stata la prima volta che c'è stato un movimento auto-organizzato che ha alzato la propria voce per i diritti. E è nata attorno a loro una rete, un'alleanza, appunto Alliance with Refugees in Libia, e noi ci occupiamo di supportarli, di amplificare la loro voce e con loro portarla fino alle istituzioni europee. E oggi la campagna che lanciamo è quella della richiesta dell'evacuazione di 221 persone che sono appunto Human Rights Defenders e che si trovano ancora in Libia, nelle condizioni che sappiamo bene esistere in Libia, maggiore rischio fra l'altro per la loro attività politica, e noi chiediamo che oltre alle evacuazioni che sono previste grazie a Sant'Egidio, che saranno 500 all'anno, noi vogliamo che queste persone vengano fatte evacuare dalla Libia e portate in Europa. Ovviamente questo solleva il tema mai risolto, il fatto che la Libia non è un paese sicuro, a maggior ragione se si fa attività politica di questo tipo. Esatto, ormai ci sono tanti racconti, tante inchieste, ma anche le voci delle persone stesse che noi incontriamo in mezzo al mare, che ci riportano non solo proprio i segni sulla loro pelle che posso vedere io nell'ambulatorio a bordo della nave, ma ci raccontano anche direttamente quello che vivono, le torture più atroci dentro ai campi di detenzione e di tortura in Libia, di cui molti in realtà non sono nemmeno ufficiali, quindi è solo grazie alla loro voce che possiamo sapere cosa succede davvero lì dentro, ed è per questo che è fondamentale che noi li supportiamo nella loro voce che grida, rivendica i propri diritti e che deve, non può essere ignorata dall'Europa, dall'Italia. Questi due giorni a Bologna si svolgeranno anche degli approfondimenti alla BA. Sì, esatto, faremo una serie di workshop sia in delle aule dell'Università di Bologna sia alla BA, dove andremo a fare anche degli approfondimenti su quello che sarà il progetto di ARIL, di Alliance with Refugees in Libia, che consisterà nella creazione di una hotline, quindi una linea telefonica in supporto alle persone che si trovano ancora in Libia, e un ufficio che avrà sede alla BA, dove raccoglieremo tutto il materiale, tutte le notizie di cui avremo appunto notizia grazie all'hotline e alle testimonianze dirette delle persone che si trovano in Libia, proprio per impugnare poi delle battaglie, delle rivendicazioni, delle denunce di quello che succede. Un'ultima battuta più generale sulle politiche italiane e europee che spesso si concretizzano in questi memorandum. Abbiamo visto ovviamente quello con la Libia, quello con la Tunisia, adesso una sorta di memorandum con l'Albania. Voi cosa ne pensate? Queste cose sono assolutamente fuori da ogni concezione dell'essere umano e dell'essere un paese civile, democratico. Adesso addirittura con l'Albania, per esempio, si prospetta di portare queste persone chiuse in dei campi in Albania senza passare nemmeno dall'Italia, che dovrebbe essere il porto di sbarco sicuro più vicino, sulla base di una selezione che potrebbe essere addirittura sanitaria, cioè facendo salire dei medici a bordo, cercando di capire chi è vulnerabile e chi no. E già questa è una cosa folle, perché per definizione chi si trova in mezzo al mare dopo aver affrontato quel viaggio, chi ha lasciato casa propria per più svariati motivi, attraversando deserto, mesi di torture in Libia, è un soggetto vulnerabile, e questa è una discriminazione violentissima da fare sulla pelle delle persone, e assolutamente noi siamo contro ogni forma di questi memorandum che hanno portato solo una violazione dei diritti umani estrema per interessi economici.